666. Budino di limone. Un grosso limone di giardino. Zucchero grammi 170. Mandorle dolci con tre amare grammi 170. Uova numero 6. Un cucchiaino di rum o cognac. Cuocete il limone nell'acqua, per il che saranno sufficienti 2 ore. Levatelo asciutto e passatelo per istaccio. Però prima di passarlo assaggiatelo, che se sapesse troppo di amaro, bisognerebbe tenerlo nell'acqua fresca finché non avesse perduto quell'ingrato sapore. Aggiungete ad esso lo zucchero, le mandorle sbucciate e pestate finissime, i 6 rossi delle uova e il rum. Mescolate bene il tutto, montate le 6 chiare ed unitele al composto che verserete in uno stampo per cuocerlo nel fornello o nel forno. Si può servire tanto caldo che ghiaccio.